L'Europa ha già deciso di rafforzare le sanzioni degli Stati membri che già esistono. Io credo che occorra un passo politico ulteriore, scoraggiare le imprese multinazionali europee dal continuare ad investire o finanziare nella Birmania, perché questo direttamente o indirettamente indebolisce le sanzioni. E poi un'azione politica forte su Cina, Russia e India, affinché quella indiretta protezione regionale che la Birmania ha avuto con forniture militari, forniture energetiche, cessi finalmente.